giorno accendo la TV, sempre stessa storia, non ne posso più. Notizie negative in ogni canale, certo che il mondo sta andando male. Crisi del lavoro, l'economia che crolla, il piccolo impresario si uccide perché molla. Ragazze violentate fuori dai locali, prede di giochi spesso letali. E i genitori in allerta costante, è una questione alquanto frustrante. Ogni timore diventa realtà, questa situazione chissà se finirà. Guardo mia figlia, tutto ciò che ho è la famiglia. Lotto ogni giorno contro tutto questo, per andare avanti è l'unico pretesto. Penso al futuro, se ancora ce n'è uno, per quanto sia duro non t'aiuta nessuno. Ma saremo forti, l'unione fa la forza, sebbene tutto il male sembra che ti strozza. Mi alzo alle 5 come ogni mattino, vado al lavoro, fortuna che vicino. Mi rompo il culo ma non basta mai, per pagare tutte le spese che hai. Cosa credere in un mondo così?